che mi ascolti qua Tony? Bene. Ma è straniale con me? Aspetta, fammi di pizza. Prova. Vediamo un po', sei straniale, voglio sapere. Come adesso? In mezzo, 330, 930. Aspetta se cambia qualcosa. Vabbè. Da 9.30 a 9.40. Chiuso, ma che tu c'hai qualcosa da spingere? Manuel, Manuel, non stai uscendo, siete... Siete con un bel non stai uscendo. Manuel, aspetta che sto da culo portante, guasto. Vedi adesso? Sì, saturo, prova. Saturo, e adesso? Sì, saturo. Aspetta. Cazzo, fondo scala, non ho parlato. Mi senti? Certo, ti sento sempre. Ma la voce è bassa? Non tanto, però la voce è bassa, non dimmi che dimmelo. Ma la modulazione è bassa? Non è amplificata, ma non è. Ehi, ma è bassa la modulazione? No. Ed è in saturazione? Un po' saturo rimaci. Quanto sei poppato? Vedi adesso? Adesso un po' di meno. C'ho il compresso inserito. Adesso va bene. E siamo vicini, per quello che ti sono saturazione. Ehi, oh, sei chiaro, limpido, recuaro. Andare, andare, andare. Evviva l'Irbia! Mamma mia, è possibile. A 12.14, assistenti di Manuel. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. A chi lo dici? Io oggi ho travagliato in questi giorni, guarda, per carità. Io me ne scappo i gabberoni. I gabberoni? Ma io non sentito. No, niente. Mi fascetti a portare, vabbè, c'è un certo di freccia. Se ne metto a parte, usiamo sotto le dopo. E metti le da fa. Da fa. Ehi, ehi, ehi. Allora facciamo, buona grossa. Dietro tre misure ce ne sono. Ehi, ma che mattina gliela posso fare? Ma lui lavora che è domani? Sì, lui va anche di 24. Ma che zona fa di preciso lui? È sotto unico, mi sembra. E cazzo, ma faceva la zona tua? No, la mia non la fa, c'è sotto unico. C'è sotto unico, campionale. Bravo, bravo. Allora, facciamo piano, lì vi fa il telefono, già, ci vediamo, lo ti darò. Qui è di passaggio, passiamo qui per la notte. Ok, con la moto del comune fa, c'è della nostra urbana. Faccio una macchina del corso, sì. Come no, ma con la macchina sua, è quella della lascia deposito. Tu, niente. Io penso di andare con la macchina giù, di assegnare il deposito. Poi da lì va con la macchina della da lì. Tu, neanche le saggio io. Andà bene. Dai, cari, perfetto. Comunque lo so bene che con due baracchini puoi parlare in duplex. Con quale? Con due baracchini. Con due baracchini. Cappa. A baracchini. Con due baracchini puoi parlare in duplex. Ma quale baracchini? Questi non parlano noi adesso, mi, due di questi. Anche un 40 canali, 23 canali. E beh? Allora, io parlo su 10. Tu mi ascolti su 10, ma tu trasmetti a me per rispondermi sul canale 40. E io sono tra Marachino in ricezione 40 e trasmetto su 10. Tu mi ricevi su 10 e trasmetti su 40. E io ti sono su 40 e ti rispondo su 10. Poi dice tra solo a me e solo a te. Ma che fai? Io non ho compreso una massa, siamo detto. In duplex praticamente avendo due baracchini io due baracchini su, tu metti un canale, un ipotesi canale 10, no? E canale 40. Allora io trasmetto sul 10 che tu mi ascolti sul 10, però a me mi rispondi sul canale 40, che io ho acceso il canale 40 come ricezione. Come dicevo a te, che quello che mi dici io ti rispondo sul 10. Tu mi ascolti sul 10 ma trasmetti sul 40, hai capito? E cazzo, io devo ponere la cavaglio pure. Eia, cioè, infatti qualcuno che voi la portate su 10 non fa un cacchio, perché tu mi fai di su 40 e ti attacca a naso, siete solo a me. Mi sembra di pochi fare dall'altro. Eia, così Edono, io sono molto importante, non mi fate un pifo perché io sono sull'altro canale. Mi dà questo di buono, è un po' cacchio. E c'è gente che non sa cosa fa. Dopo metterla la canottrice così faccio un bel affaggio, c'è la roba di lavoro, la mappa l'ha fatta, non senso più, mi sono dimenticato qualche pantalone che ho dovuto lavare e ho messo via. Buone, buone, buona andata la lavatrice. È già piena carico, eh. Poi c'è un bel bussone in Mondetta che già si è stato la pa. C'è una pa sotto la ghita che va giù, ha fatto le bustine, ha messo tutto là dentro, le gatte ha messo dentro, e la manna lì ha da scocci. Una voce aveva le moschine ha detto, tu già l'hai detto, via, morite. E pensi un po', lo so, quando sono fai cosa, poi, mamma mia. Vabbè. Cazzo, mica sei già anticipato a Manzano, ma quanti ci sono piace Lugani? Ah, tu apporta che stasera, cazzo. Ehi, a me aveva voluto, la violenza è che tra i fatti, mi calmiamo i soldi. E ho messo la mano in culo, e lì, lascia stare, oh, lasciami toccare. Ma anche per la patatotta che c'ha, ma la voce ce l'aveva. Poi porta quei fuggiù che ci vede tutto, cazzo. Non c'è niente, ui, ui, ui. Cazzo, la burda, vai. E ma noi siamo salvani, e poi perché dico da te non ci sono, se non fai stare fuori. Andare. Cazzo, non ha pigliato l'occhio per ricovero dei cani, boh. Ha pigliato un lupo in occhio per ricovero dei cani. Cazzo, ha pigliato. E tu, piace, non fai nulla, mio Emanuele. Ah, non lo so se lo sono andato, vediamo. Certo, le 17:17, due numeri uguali sono. Io ce l'ho nella tavola che l'ho dovuto. Sì, ma non aggiungo che ci siamo fuori dentro i nuovi e non là. E passa là, grazie. Dai, aspetta che stai con questo. Avanti, quello importante, chi è? Avanti, chi è? Ma so Giussi. Io non ve la fai a venire avanti con questo mio, con questa misera portante. Va bene, sei dolce.